Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Legò Prometeo dai vari pensieri con inestricabili lacci, con legami dolorosi che a mezzo di una colonna poi avvolse, e sopra gli avventò un'aquila, ampia d'ali, che il fegato gli mangiasse immortale, che ricresceva altrettanto la notte quanto nel giorno gli aveva mangiato l'uccello dalle grandi ali. Così Esiodo descrive la scena del mito di Prometeo, un mito che possiamo rileggere anche in chiave moderna. Ciascuno di noi ha la sua aquila, possiamo chiamarla stress, che divora le nostre energie, che sorprendentemente per la medicina cinese risiedono proprio lì, nel fegato, la sorgente prima di tutte le energie, il grande trasformatore, capace di rigenerare di continuo, nonostante le aggressioni continue. In linea con noi abbiamo il dottor Maurizio Corradin, medico, esperto di medicina tradizionale cinese e direttore del comitato scientifico di Lefei Resort, oltre che nostro esperto per il Daily Lab. Dottor Corradin, buongiorno. Buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Dottore, il fegato è una fabbrica di energia per la medicina cinese, conferma? Assolutamente sì, in modo particolare regola l'energia di tutto il corpo e in quattro zone in modo particolare. A livello della testa, quindi facilita la circolazione di energia nella testa e ci dà la leggerezza nella vita, la capacità di guardare a un domani in modo sereno, regola l'energia a livello muscolare, ad esempio qui quegli 8.000 pazzi, fra cui il sottoscritto, che ieri hanno fatto la maratona di Venezia, dovevano avere il fegato in perfetto stato se volevano riuscire a correre per tutti i 42 chilometri. Poi ancora, il fegato regola l'energia a livello dell'apparato digerente, quindi tutta la digestione in primis, dipende per la medicina cinese da alcuni organi che sono lo stomaco, la milza, pancreas ed altre funzioni, ma poi il fegato regola tutta come un servomeccanismo l'energia di questi organi ed infine regola la circolazione energetica in una particolare funzione o superfunzione che è l'equivalente dell'apparato linfatico, almeno per certi aspetti, è l'equivalente dell'apparato linfatico dell'organismo e possiamo dire che facilita la circolazione dell'energia e dei liquidi in tutto il corpo. Quindi, dottor Corradin, se lei dovesse raccontare in tre aggettivi, in tre parole, il fegato, secondo la medicina tradizionale cinese, quale userebbe? Leggerezza nella vita, ottimo funzionamento di tutto l'apparato digerente e poi perfetta circolazione dei liquidi in tutto il corpo. Grazie, dottor Corradin, a presto. Mi so magna del fegato e me lo magno ancora, ogni volta che ripenso che tu sei la mia signora. Abbiamo sentito la lettura della medicina tradizionale cinese del fegato, ma come lo descriverebbe invece il professor Guido Torzilli, responsabile della chirurgia epatica di Humanitas e docente all'Università di Milano, che è qui in studio con me? Buongiorno intanto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Il fegato è una ghiandola, è l'organo più grosso che noi abbiamo e è un po' la centrale biochimica del nostro organismo, perché ha molteplici funzioni. La prima fra tutte è quella di essere una specie di laboratorio chimico, quello che ci produce un po' le proteine, i mattoni con i quali noi costruiamo, le rende quantomeno utilizzabili da quelle che noi assorbiamo alimentandoci, e le immagazzina i grassi, immagazzina gli zuccheri, quindi è anche una specie di grande armadio dove noi conteniamo quello che noi immagazziniamo. Ci aiuta a digerire perché produce la bile, secerne la bile che permette a noi di assorbire quello che noi mangiamo e di far progredire il cibo attraverso l'intestino in modo fisiologico, regolando un po' la peristalsi, cioè il movimento dell'intestino. Quindi ci sono dei punti in comune tra la medicina tradizionale cinese e la medicina occidentale riguardo alle funzioni del fegato, mi sembra. Molti, molti. Direi che in realtà la medicina tradizionale cinese ha un po' identificato quello che poi la medicina, convenzionale, quella che noi tutti pratichiamo, ha cercato di analizzare per capirne i meccanismi che poi la portano a cercare di comprendere anche i problemi che il fegato dà. Quindi ghiandola, grande ghiandola dovrei dire, dalle mille funzioni, voglio chiedervi anche una cosa. Abbiamo pensato di proporvi questa domanda, l'abbineremo al nostro quizzettone quotidiano. Potrete ricevere a casa la guida al benessere che ho scritto con Alberto Pella e Paola Reverso, 800 24 0024. Tra l'altro potete seguirci come sempre su Facebook e su Twitter. Il fegato, oltre a tutte le funzioni che ci hanno raccontato il dottor Corradin, secondo la medicina cinese, il professor Torzilli, secondo la medicina convenzionale, ha un'altra caratteristica. Il fegato infatti sostituisce, pensate, il midollo in un periodo molto importante della nostra vita. Cosa fa e qual è quel periodo? 800 24 00 24 se volete raccontarcelo in diretta per ricevere a casa guida al benessere. Sappiamo che il fegato è un grande lavoratore che soffre un po' lo stress e che a volte è un po' collerico, e sappiamo che alla lunga questa emozione non gli giova, lo avvelena. Quindi cerchiamo di aiutarlo a metabolizzarla, e allora ho chiesto aiuto ad Alessandra Callegari, counselor, esperta di bioenergetica e formatrice, che è venuta qui in studio a trovarmi. Quindi ho due esperti oggi in studio, sono molto felice. Alessandra, grazie per essere con noi. Grazie a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, la rabbia, si dice, mi mangio il fegato dalla rabbia. Sì, come sempre queste espressioni popolari hanno un fondo di verità, no? Quindi il riferimento alla rabbia, alla collera, al fatto di essere biliosi, se pensiamo, no, ai temperamenti di cui parlavano gli antichi greci, ritroviamo questa emozione primaria messa in luce e associata al fegato, no? Di fatto è vero, la rabbia, diciamo, ci rode il fegato. E la rabbia è un'emozione primaria nel senso che proprio è legata, soprattutto alla frustrazione, ed è legata a un ambiente che noi percepiamo come ostile, un ambiente che non ci capisce e che ci dice di no. Quindi la proviamo da piccolissimi, da bambini. Peccato che nella nostra società effettivamente è forse l'emozione che in assoluto viene più repressa e inibita. E soprattutto da bambini, perché un bambino che esprime la propria rabbia di solito viene considerato cattivo, disubbidiente, come si permette di. Cosa succede? Che reprimere le emozioni nel corpo significa reprimere i gesti, quindi l'atteggiamento muscolare, l'aspetto motorio dell'espressione dell'emozione, che non a caso si chiama emozione, quindi che comporta movimento per essere espressa. E c'è tutta una serie di distretti muscolari specifici che sono collegati all'espressione della rabbia. Credo che tutti sentiamo che quando siamo arrabbiati, per esempio, stringiamo la mascella, o ci verrebbe da digrignare i denti, ci verrebbe da muovere le mani per battere, graffiare, dare un pugno, lanciare. Vedo che il professor Torzilli annuisce, chissà quante volte, evidentemente anche lui prova questa emozione. Ma non c'è nessuno che non le provi, mi sento di dire che anche il Dalai Lama le prova, quindi anche la persona più tranquilla, no? Prova rabbia. Quindi cosa fare per, mi viene da dire... Per non avvelenare il fegato dalla rabbia, e non solo il fegato, ci sta dicendo Alessandra. Certo, perché... per non di fatto, come dire... rivolgere la rabbia contro di noi intossicandoci, no? Dobbiamo esprimerla. Allora, se è vero che esprimerla verso l'oggetto della nostra rabbia alle volte non è molto sicuro né opportuno, è bene fare degli esercizi per permetterci di dare voce a questa emozione e esprimerla a livello corporeo. La bioenergetica, per esempio, non solo la bioenergetica, ma sicuramente questa disciplina in particolare, ha posto l'attenzione sulla necessità di esprimere in modo sano, adeguato, in un setting protetto, le emozioni. La rabbia, in particolare, viene espressa come? Con dei gesti espressivi legati proprio a muovere le braccia, a muovere la mascella, a permettersi anche di grignare i denti, di esprimere la rabbia attraverso gli occhi. Per esempio, un utilissimo sarebbe usare un cuscino, un cuscino di media grandezza, non troppo pesante, alzarlo con tutte e due le braccia sopra la nostra testa, mettendosi in piedi ben saldi, con le ginocchia leggermente flesse davanti a una poltrona, e batterlo, farlo cadere violentemente sulla poltrona, eventualmente permettendosi anche di lasciare uscire il proprio suono o una parola o cosa, quello questo, che ci viene. Questo ci permette di scaricare la rabbia e di non avvelenare il fegato. La rabbia infatti può affaticarlo, ma professore, ci sono altri veleni che lo possono far ammalare, perché il fegato, lo sappiamo, come tutte le persone in vista importanti, abbiamo detto che è una ghiandolona, è la ghiandola più grande, quindi è un po' fa rodere il fegato ad altri, ha degli amici e dei nemici, soprattutto questi, alcuni sono veri, altri presunti. Don Ivo, una tazza di caffè? No, grazie, signor, c'ho il fegato malato, non lo posso pigliare, grazie. Vince, io non ce la faccio più, io ci sono venuto apposta qua nella stazione, e poi invece si è trasformato in un incubo. Tutti quei treni che passavano, che passavano, che passavano. Ma ci fate un bello caffè, eh? Il caffè. Vabbè, signor, datemela a me, va, grazie. Don Ivo, ne vuoi un po'? Per carità, è veleno, tengo tutto il fegato spappolato, non lo posso pigliare. Professore, ma secondo lei, Lorena aveva ragione? Ma io direi che il fegato è, non sarei così drastico verso il caffè. Bravo. Il caffè, questo mi piace, perché io ne bevo tantissimi, se no mi coricavo già qua, venivo subito da lei. Anch'io ho questo vizio e quindi mi sono un po', voglio dire, perdono me stesso quando dico che tutto sommato il fegato lo accetta. Il fegato è il nostro laboratorio, è quello che detossifica quello che noi assumiamo e quindi per forza di cose deve avere a che fare con tutto quello che noi ingeriamo, con tutti i cibi, non può avere gradimenti e favoritismi o meno, è l'eccesso quello che sposta il problema, al di là di un problema fondamentale che è quello dell'alcol, che è l'unico vero ingrediente un po' problematico per il fegato. Ma per il quindi resto, l'alcol sta al fegato quanto come il fumo sta al polmone? Esattamente, sì. Direi che non si deve essere così drastici nel abolirne l'utilizzo quanto l'assunzione, dal punto di vista delle persone che sono sane, ovviamente, stiamo parlando di persone sane. Però bisogna avere l'idea che, ad esempio, 3 bicchieri di vino tutti i giorni per tutta la vita aumentano significativamente il rischio di avere una patopatia cronica. Ma 3 bicchieri di vino sono pochissimi. 3 bicchieri di vino tutti i giorni sono un quantitativo che forse non passa così mediaticamente giustamente sottolineato, ma che comunque invece può avere le sue implicazioni nella salute delle persone. Quindi un uso moderato, il vino va assunto, ma non con quella periodicità che le ho appena sottolineato. Quindi abbiamo così tolto dal banco degli imputati il caffè, quindi professore, ok, va bene per la tazzina, cauti con il consumo di alcol, ma volevo chiedervi a voi che cosa fate per non affaticare il vostro fegato, che cosa avete eliminato. Ci sono delle persone che eliminano le uova, altri i crostacei, altri i fritti, i dolci. 800 24 00 24, lo stesso numero vale per rispondere alla domanda di oggi: il fegato sostituisce il midollo in un periodo molto importante della nostra vita, qual è e soprattutto che cosa fa? 800 24 00 24. Abbiamo detto che ci sono alimenti che il nostro fegato tollera con un po' di fatica, come l'alcol, ma ci sono invece alimenti che al nostro fegato forse piacciono e fanno bene, lo aiutano. In linea con noi abbiamo la dottoressa Paola Reverso. Buongiorno. Buongiorno. Dottoressa Reverso, alcuni amici del fegato di solito sono amici che hanno un sapore leggermente amaro. Sì, in questa stagione abbiamo la radicchia, ad esempio, che facilita la digestione potenziando il lavoro delle cellule epatiche. Altri amici invece possono avere un sapore un po' particolare, come i tapinambur. Sono dei tuberi che proteggono il fegato. Altri ancora invece sono un pochino acidi, la mela un po' meno, la mela grana un pochino di più. Questi acidi organici aiutano sempre il lavoro del fegato. In termini pratici, tradotti in un menù, che cosa facciamo? Potremmo prepararci uno sformato di topinambur, magari aggiungendo anche qualche fungo, visto che la stagione è quella giusta. Funghi naturalmente super controllati, andate alle ASL, non coglieteli da soli, non improvvisatevi raccoglitori e soprattutto rispettate i boschi. Scusi, dottoressa Reverso, ma è importante ricordarlo sempre. Approvo, magari questo sformato lo prepariamo con della ricotta di capra. Ricordiamoci che il latte di capra, proprio per l'alimentazione degli animali, è molto ricco di acidi grassi omega 3, quindi contiene una percentuale di grassi saturi inferiore al latte vaccino. Potremmo aggiungere qualche nocciola, che sono sempre la nocciola contiene grassi che amici del fegato, sì. E servire questo sformato con un'insalata di radicchio, mela e semi di papavero. Voilà. Terminiamo con un infuso di radici di tarassaco, che è molto digestivo, tarassaco e fiori di malva, e aggiungiamo in questo infuso un pochino di succo di melagrana. Che tra l'altro è ricchissima di vitamina C, che ci fa assolutamente bene in questo periodo, non solo al nostro fegato. Sì. Certo, perché potenzia le difese immunitarie. Tutto questo lo trovate tra alcuni giorni sul Daily Lab, perché così abbiamo proprio in termini pratici, insomma, un piccolo menù. Grazie dottoressa Reverso, buona giornata. Grazie a voi, buona giornata. Professor Torzilli, l'importante però, l'abbiamo visto, è un certo equilibrio, magari privilegiando alcuni alimenti, la dottoressa Reverso ce ne ha segnalate alcune, ma la cosa fondamentale è che il nostro fegato non ingrassi e non ingrossi. Come facciamo a capire se è in forma? Beh, a parte l'igiene alimentare, quindi una dieta equilibrata e una vita anche con una certa attività fisica che faciliti il consumo delle calorie che noi ingeriamo, perché più noi andiamo in eccesso di calorie, più facciamo lavorare il nostro fegato, lo mettiamo sotto stress. Anche la buona norma è quella di farsi dei prelievi del sangue una volta all'anno, sì. E andare a vedere alcuni elementi che ci possono indicare se il fegato sta bene o meno. Quali sono, professore Torzilli? La bilirubina, le transaminasi, che si chiamano AST e ALT, la gamma glutamil transpeptidasi, gamma GT, sì? E la fosfatasi alcalina. Poi ci sono anche altri indicatori, l'attività di coagulazione. Comunque la salute del fegato si legge attraverso un semplice esame del sangue. Sì, ci sono ad esempio la gamma GT e le transaminasi, sono due indicatori importanti, perché il fegato lavora molto e non si lamenta mai, o meglio, quando si lamenta perché è tardi. Di solito purtroppo sì, non dà segno di sé, non dà dolore. Non... Marco da Pordenone, 800 24 00 24, benvenuto Marco. Buongiorno. Avete fatto riassunto della mia settimana scorsa, tanto che venerdì sera volevo mandarti un messaggio se facevi una puntata sul fegato. Veramente, Marco? Sì. Allora sono anche un po' strega, vedi? Lunedì mattina scorso mi sono ritratto con un dolore forte sul lato destro del torace. Sono andato a fare gli esami del sangue, valori di ALT, AST elevati. Perché? Perché io, nonostante sia astemio, non mangi carne, però da quando sono disoccupato per stress mangio formaggi, pizze in quantità industriali e il fegato ne risente. Ne risente, volevo chiedere un consiglio se di qualche formaggio magari leggero per non proprio togliermi quell'ultima soddisfazione alimentare. Marco, noi dicevamo appunto quanto il fegato anche per la medicina cinese non solo sia un organo emotivo, nel senso che metabolizza molte delle nostre emozioni. La preoccupazione di Marco, che è rimasto senza lavoro, pesa naturalmente anche sul suo fegato e passa come? Attraverso uno stile alimentare che è assolutamente rapido, no? Un fast food, forse, no? E quindi Marco ci dice: avevo male al fegato. Marco può essere tranquillizzato subito dal professore, perché il fegato solitamente non è il dolore che avvertiamo, no? Che ci dice che il nostro fegato è ammalato. Il male al fegato è... Solitamente il fegato non fa male, quindi i segni sono sempre legati agli organi adiacenti. non dà questo tipo di segno di sé, quindi direi che non sono quelli legati. Però Marco ci chiedeva un'indicazione per la dieta, professore, dice: non toglietemi il formaggio, è una soddisfazione che mi è rimasta. Allora, formaggi magri non ne abbiamo, tranne la ricotta, che è un formaggio che è comunque già una cosa molto buona. Ma, professore? Beh, io devo dire che consiglierei di mantenere una dieta equilibrata, quindi se l'apporto calorico complessivo che fa la differenza, fondamentalmente non deve privarsi dei formaggi. Io direi a Marco che può andare a leggere, Marco, se sei ancora in linea, alcuni dei menù che Stefano Polato, su indicazione del dottor Ongaro, prepara per i nostri partecipanti a Mangia con me. Sono dei menù equilibrati che sono stati creati su misura del caso, ma danno delle indicazioni preziose per chi vuole cambiare un po' vita. E torneremo naturalmente, ma subito dopo i mercati, perché Marco ha fornito sicuramente degli spunti interessanti ad Alessandra, perché ci ha raccontato da quando sono disoccupato, quindi la crisi impatta anche sulla salute generale del nostro organismo, e il fegato tante volte, come dicono proprio i detti popolari, ne fa le spese. 800 24 00 24. Ricordate, cosa fa il fegato? Fa anche una cosa particolare: sostituisce il midollo in una parte, in un periodo importante della nostra vita. Cosa fa e qual è? 800 24 00 24. Guida al benessere, se rispondete correttamente, ma restate qui perché parliamo di questa grande ghiandola. Lavora molto, soffre un po' lo stress, è un po' collerico, ma ricordatevi che il fegato ha anche molto coraggio. La primavera esiste la mattina, dalla mia cucina vedo il mondo tondo, sempre diverso, sempre ogni mattina, sì, dal giorno prima, con in bocca un gusto amaro che fa schifo, chissà cos'è stato quello che ho bevuto, non so dal letto e penso al povero mio fegato spappolato, fegato spappolato. E siamo tornati insieme, parliamo di fegato, un organo che è una fabbrica di energia, un grande trasformatore, un organo su cui pesano anche le nostre emozioni, si dice il fegato, no? Che rielabora in qualche modo, che si faccia rodere anche dalla rabbia, ma sappiamo che il fegato è anche sinonimo di coraggio. Cerchiamo però di farlo stare bene, sentiamo le domande prima dei nostri ascoltatori e torniamo anche subito dopo con il professor Torzilli all'importanza di capire se il nostro fegato è ingrassato o è ingrossato. Marco da Bergamo e Clara dalla provincia di Bari. Marco, buongiorno. Sono Marco, dalla provincia di Bergamo. Sì, ascolti, io innanzitutto complimenti per la trasmissione. Grazie Marco. Mi volevo rivolgere al professor Torzilli per chiedere... Sì, Torzilli. Mi scusi. Sì. Per richiedere un parere, io ho problemi da diversi anni con transaminasi e gamma GT, avendole altissime, non altissime, cioè valori del tipo anche 8,50, e nessuno mi ha dato mai nessuna spiegazione. Adesso ultimamente mi hanno detto di prendere la pasticca medicinale proprio per abbassarlo, e allora sì che mi sono deciso a fare della movimentazione fisica, diciamo così. Sì, a fare un po' di attività fisica, su cui torneremo con Alessandra, che magari può dare delle indicazioni. Professore? Ma le gamma GT sono un importante indicatore, un possibile potenziale indicatore anche di steatosi epatica, di un fegato grasso. Grasso. E quindi io consiglierei all'ascoltatore, se non lo ha fatto, di comunque farsi innanzitutto monitorarla, ma mi sembra che lei abbia monitorizzata, e fare dei controlli anche all'imaging, quindi un'ecografia, per vedere che se esistono dei segni, anche se non sono ben graduabili con l'effettivo impegno di grasso dell'organo, ma che comunque possono dare un'indicazione. Quindi l'ecografia ci dà un'informazione in più, oltre agli esami del sangue, certo. Ci fa è la fotografia del nostro fegato. Certo. Sì. Quindi, però l'attività fisica, Alessandra, è assolutamente benefica, non solo per tutto, dal cervello ai muscoli, ai tendini, passando per il fegato, la nostra salute sicuramente migliora. Ma un consiglio per il nostro ascoltatore? Ma vede, l'attività fisica in realtà è la condizione per muovere tutto quanto, quindi a parità di regime alimentare, una persona che sta sempre ferma e fa vita sedentaria, una persona che si muove, è chiaro che aggiunge, no, un valore a quello che ha mangiato di buono, eccetera. E attività fisica, il problema è che noi ragioniamo in termini di vado in palestra una volta alla settimana, vado a fare questo una volta alla settimana, e ci dimentichiamo che attività fisica vuol dire semplicemente approfittare di tutte le occasioni che abbiamo, quindi realmente camminare e non prendere la macchina per fare 500 metri, realmente fare le scale e non prendere l'ascensore, realmente in un grande magazzino non prendere il tapis roulant o le scale mobili ma andare a piedi. Basterebbe questo? Sì. Per professore, attivare il nostro metabolismo, visto che tutto è collegato. Che dice? 20-30 minuti di cammino per uno che non riesca a fare, andare in palestra così al giorno, aiutano molto a bilanciare l'equilibrio tra quello che noi ingeriamo e quello che noi consumiamo, perché è quello che, quando si squilibra, carica il fegato di un eccessivo lavoro e quindi lo fa non star bene. Camminate, il fegato vi ringrazierà. Clara, dalla provincia di Bari, buongiorno. Buongiorno, volevo chiedere all'esperto se il fegato grasso si può verificare solo attraverso l'ecografia, perché le mie analisi sono perfette, mentre il medico di famiglia ha ipotizzato appunto l'esistenza del fegato grasso e quindi mi ha indicato di fare l'ecografia. Quindi sono costretta a fare l'ecografia? Una domanda. Allora, e lei, Clara, vuole svicolare il medico e dice: no, l'ho sentito alla radio. Poi il suo medico di base dice: ma come senti alla radio? Professore, attenzione che questa è pericolosissima, sbilanciarsi, certo, su questa, certo, domanda. Ma possiamo invece, a parte gli scherzi, dare delle indicazioni che in parte abbiamo già date su questo fegato grasso, steatosi epatica, come si chiama, no, in termine tecnico. Certo, la prima indicazione che mi sento di dire è quella di non cercare scorciatoie. Il medico è il medico che la segue, con il quale deve costruire il rapporto e sul quale deve basare poi quelle scelte che la conducono a fare più o meno certi esami. Certamente il fegato grasso è un problema dei nostri giorni, è un problema che è sempre più emergente, che si associa a quella cosiddetta sindrome metabolica, quindi all'accumulo di grassi, a una serie di, al sovrappeso, all'ipertensione, tutta una serie di cortei di sintomi che possono condurre a questa sindrome, che abbiamo visto si associa più frequentemente a un'epatopatia cronica. Epatopatia cronica, che la steatosi è un'epatopatia cronica, va misurata appunto, come abbiamo detto prima, con gli esami del sangue e con l'ecografia. Certo, se siamo di fronte agli esami del sangue normali possiamo stare un po' più tranquilli, però poi è il medico che vede la paziente, che segue le condizioni generali, quindi una valutazione ben più complessa di un colloquio radiofonico, che deve decidere se deve, certo, approfondire o meno l'argomento. Quindi deve avere il coraggio di fidarsi. A proposito di coraggio, Alessandra Callegari, il fegato è anche l'organo del coraggio, non solo quello che somatizza la rabbia. Sì, si dice appunto avere fegato, no? E mi viene da dire che è interessante come due emozioni primarie, come la paura e la rabbia, vediamo che sono, no, collegate nel senso, mi viene da dire, visto che parlavamo di attività fisica, che di nuovo una cosa, l'aspetto fondamentale, no, che va unito in tutto quello che abbiamo detto, dimostrando come siamo un tutto, no, un organismo collegato, è la respirazione. Cioè, il coraggio, diceva, no? Non se lo può dare chi non ce l'ha, no? Ci diceva Manzoni attraverso Don Abbondio. Però ecco, forse non è del tutto vero, nel senso che riuscire a cercare di essere in contatto con le proprie emozioni e per esempio lavorare sulla respirazione, quindi su una respirazione che può, l'abbiamo detto mi pare anche in un'altra trasmissione, andare in due direzioni fondamentalmente. Può essere una respirazione che attiva l'energia, sì, e quindi respiriamo in un certo modo, o possiamo imparare a respirare in un modo che invece ci rilassa, ci tranquillizza e lavora sul nostro stato ansioso, no? Non c'è dubbio che in questa vita siamo spesso in ansia per meglio un sacco di cose. Meglio impararle tutte e due. È fondamentale. male impararle tutte e due. E di nuovo mi viene da dire, è un mio vecchio pallino, ma approfitto di questa possibilità di dirlo, andrebbe insegnato a scuola. Cioè noi dobbiamo portare non solo il corpo e il movimento, ma la respirazione, e insegnare ai bambini fin da piccoli che si può lavorare sulla propria capacità respiratoria, proprio nella direzione di attivarci, essere pieni di energia, godere, usare, no? Il respiro proprio come alleato del nostro benessere, perché riesce a modulare anche i nostri stati d'animo. E noi andiamo invece a sentire che cosa sta succedendo sulle strade e sulle autostrade. Tra l'altro, se siete in macchina, ricordatevi quando tornate di andare a leggere sul Daily Lab un post che ci ha scritto proprio Alessandra Callegari sulla rabbia in macchina, e ci sono degli esercizi utili. Noi andiamo a sentire che cosa succede, anche il professor Torsilli adesso andrà, e poi vi devo sempre dire di scaricarci, assolutamente, questo è, devo sempre ricordarvi di dirvelo, oltre che di seguirci su Facebook e su Twitter. Professor Torsilli, abbiamo aperto con il mito di Prometeo. Forse i greci già sapevano che il fegato era capace di rigenerarsi, forse sì, ma una cosa è certa, questa sua caratteristica vi offre a voi chirurghi del fegato opportunità straordinarie. Beh certo, è quella che ha aperto alla chirurgia la strada per poter curare, ancorché maltrattandolo un po' perché lo dobbiamo tagliare, il fegato. E questo curarlo sfrutta essenzialmente la sua capacità di rigenerare, anche se la capacità di rigenerare ha un limite, non è che si può andare oltre certi livelli, per cui è bene comunque cercare di toglierne il meno possibile, però certamente quello che a oggi noi sfruttiamo per curare i pazienti che hanno una malattia al fegato che deve essere tolta, segnatamente i tumori. E quindi però, professore, questo significa restituire al paziente una seconda chance? Beh, certo, la chirurgia oggi è ancora al centro della terapia di molti tumori del fegato e permette in molti casi di raggiungere la cura. Abbiamo Liliana che ci chiama dalla provincia di Vicenza. Buongiorno Liliana, benvenuta. Buongiorno anche a voi, grazie per avermi accettata. Io volevo dire al professore, allora io ho da parecchi anni una cista nel fegato che tengo sempre sotto controllo, praticamente di 13 centimetri. Allora volevo sapere che conseguenze poteva dare. Grazie Liliana. Abbiamo passato la telefonata di Liliana perché, rispondendo a lei, professore, toglie, così risponde a molti ascoltatori, molti di questi sono preoccupati, mi scrivono, allora la cisti che cos'è, può essere può provocarmi dei problemi. Professore, la cisti è sempre benigna? La cisti è quasi sempre benigna. Ci sono tre tipi di cisti nel fegato, cisti intese come delle raccolte di liquido all'interno del fegato. La maggior parte sono congenite, si chiamano cisti semplici o biliari e non hanno nessuna conseguenza, rarissimamente necessitano un trattamento che è chirurgico, ma veramente molto raramente. Vanno semplicemente monitorate affinché si valuti la tendenza ad aumentare dimensioni, e finché non danno disturbi alla funzione dell'organo non vanno trattate. Poi ci sono raramente alcuni esempi di cisti che invece sono dei tumori benigni che possono avere anche un rischio di degenerazione, però fondamentalmente il 99% ecco, sono i tanti ascoltatori che hanno scritto al 349-238-6666, possiamo dare un messaggio assolutamente tranquillizzante, no? Ma certo, media, la patologia più frequente, che è più frequentemente benigna. Insieme ad Alessandra Callegari abbiamo cercato di parlare del fegato come di un organo molto emotivo, no? Rabbia, collera, ma anche coraggio, paura. E attraverso la respirazione noi possiamo modulare queste due emozioni e quindi alleggerire il fegato, diciamo così, in qualche modo restituirgli la possibilità di lavorare proprio come una grande fabbrica dell'energia, di darci l'energia buona, quella certo, per mordere la certo, vita. Sì, anche perché insomma il concetto di energia, che è così presente, no, nella medicina tradizionale cinese, mi sembra un concetto che possiamo, come dire, anche rivalutare a livello linguistico nella medicina occidentale. Ecco, mi sembra un po' che il fegato possa essere considerato, adesso il professor Torzilli mi guarda con quell'aria da prof con cui sta, no, quando ci sono gli studenti che vanno a dare gli esami da lui, la dico, professore, come una specie di secondo cuore posto nella pancia, un cuore più istintivo, passionale. Ma vorrei fare un saltino sul cuore, quello più in alto, quello che pulsa. Sapete che il lunedì non è proprio un giorno che gli piace, è provato dagli studi di cronobiologia. Ma questo, cari amici, è un lunedì speciale con una buona notizia. In linea con noi abbiamo il professor Piero Barbanti, primario neurologo all'Istituto Scientifico San Raffaele Pisana di Roma. Professore, buongiorno. Nicoletta, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Un minuto per dare una buona notizia, ci piaceva chiudere così. Ah sì, la buona notizia è che gli studi scientifici dimostrano che il passaggio dall'ora legale all'ora solare riduce il lunedì successivo al cambio, cioè oggi, sensibilmente l'incidenza degli infarti, gli infarti del cuore. Uno penserebbe, ma dormo un'ora in più, mi alzo con meno nervi. Questa è in parte la spiegazione. C'è un antefatto, noi dormiamo 2 ore in meno rispetto a 100 anni fa e soprattutto, cosa grave, facciamo quello che si chiama social jet lag, cioè noi spostiamo le nostre 7 ore di sonno che siano quando noi vogliamo e non sono invece le ore di sonno previste dai nostri ritmi biologici. Tanto più noi ci allontaniamo dall'orario previsto, che sarebbe verosimilmente quello di andare a letto intorno alle 10, tanto più il nostro organismo si lamenta producendo sostanze infiammatorie e attivando la sua parte di difesa, che è il sistema nervoso simpatico. Beh, queste due circostanze unite allo stress del lunedì fanno spesso, lo sanno i cardiologi nei pronto soccorsi, impennare gli infarti. Cosa succede oggi? Abbiamo dormito un'ora in più la notte precedente e una delle più prestigiose riviste mondiali di medicina, il New England Journal of Medicine, ha autorevolmente dimostrato che il lunedì successivo al passaggio all'ora solare i soggetti hanno meno infarti. Cerchiamo di farne tesoro anche per qualche altro giorno della settimana. Grazie professor Barbanti per essere stato con noi e per questa buona notizia. E chiudiamo, con Gloria che ci chiama da Udine, dalla regia mi dicono che ha pronta la risposta al nostro quizzettone. Professor Torzilli, si prepari. Gloria, buongiorno. Si è spaventata Gloria, no, vedete? Non mi aspettavo adesso che mi chiama. Allora, ah no, pensavo che si fosse spaventata del professor Torzilli. No. Gloria, allora, rapidamente. Sì, secondo me nei primi 3 mesi di gravidanza il fegato produce globuli rossi nel feto in attesa che si sviluppi il midollo del bimbo, per cui diciamo ha questa funzione. Professore? Perfetto, dica la sua. Complimenti. Complimentoni a Gloria, era difficile, guida al benessere per Gloria, Kowalski editore, grazie Gloria, bravissima, grazie ad Alessandra Callegari e al professor Torzilli che ci hanno accompagnato in questa oretta, io ringrazio voi che ci avete seguito, vi aspetto come sempre domani, seguiteci domani alle 11, io sono qua, se volete ci incontriamo.